incominciamo. Prima di dire due parole di introduzione e lasciare poi la voce a Giuseppe, ricordo che dopo la presentazione del libro abbiamo organizzato una cena benefit il cui ricavato andrà a sostegno dei disertori di entrambi i campi nella guerra in Ucraina. E l'esposizione di Giuseppe penso che sarà parte storico-critica sul testo, ma poi è prevista anche una parte di attualizzazione relativamente al tentativo di recupero in chiave nazionalista della stessa figura di Nestor Makhno, che merita una adeguata critica. Sapete tutti che di fronte alla guerra ci sono stati vari scivolamenti di tipo frontista, partecipazionista, insomma si è riproposto un problema che già si determinò in occasione della prima guerra mondiale, continuando poi nella seconda, in una declinazione ulteriore ma che riporta alle stesse problematiche, agli stessi risolti del tempo. Quindi questa presentazione, che non vuole essere meramente storiografico di valorizzazione della memoria delle esperienze rivoluzionarie del passato, non può prescindere da una serie di chiarificazioni sull'oggi. Ecco, credo che Giuseppe non parlerà per 5 minuti scarsi, credo che prenderà più tempo, ma tenete ferme le vostre gambe, perché poi appunto ci si rifocillerà adeguatamente. Dopo la cena è prevista la proiezione di un bel film che già fu dato nel cortile di Conchetta in una delle prime iniziative a seguito dell'inizio della guerra, il film di Alain Chatelain su Nestor Makhno, che merita sempre di essere rivisto. Bon, se vuoi iniziare, grazie. Rappi in piedi come fanno tutti i giovani. No, non perché sono giovane, ma perché non riesco a leggere da seduto, cioè leggo male da seduto, quindi... E io fondamentalmente dirò anche qualcosa che penso io, ma pochissimo. In realtà quella che mi è interessata sin dal primo momento è stato appunto un uso che io non condividevo personalmente, per quello che per poco che ho studiato e che conosco della rivoluzione russa. Io non sono storico di professione, come sanno i miei amici che sono qui, le mie amiche che sono qui, e faccio un altro mestiere, però mi interesso un po' da qualche anno della rivoluzione russa e sono stato un po' sconcertato dall'utilizzo che è stato fatto in alcune situazioni, insomma ci sono stati un po' di equivoci. Io credo che oltre a prendere, perché appunto fare un'iniziativa per i disertori già significa prendere una posizione che io condivido naturalmente, però oltre a prendere posizioni, secondo me una cosa che può essere interessante è cercare di restituire la complessità delle situazioni storiche. E, perché le scelte di campo, quando uno vede la storia della rivoluzione russa, si rende conto che le scelte di campo sono state determinate da una serie di fattori che non sono tanto semplici, non perché siano complessi, ma perché erano molti. E, per questo io ho deciso, spero che la cosa vi faccia piacere, se non vi fa piacere ne sono dolente, di farmi aiutare da uno che, perché il libro è di Makhno, che non scrive benissimo, era un contadino, scrive le cose interessantissime, ma ovviamente non è un letterato. E io ho deciso invece di farmi aiutare da uno che scriveva molto bene. Faccio un attimo di suspense. Come si fa a descrivere qual era la situazione dell'Ucraina nel 1918. Molto complicata perché molte sono le fazioni che vengono a incontrarsi e a scontrarsi in quella situazione. Di fatto potere bolscevico a un certo punto si trova di fronte a una situazione di emergenza per quanto riguardava la guerra. La guerra era ancora in corso. La prima guerra mondiale ancora non era finita. Allora usiamo le parole di Volin, che era uno che con Macno ci ha avuto tanto a che fare, che ha scritto anche una storia della parte sconosciuta della rivoluzione, dove rispetto a quello che stava accadendo in Ucraina, in Russia, in Ucraina, scrive così, parla Volin. C'erano solo due soluzioni. La prima era abbandonare il fronte, lasciare che l'esercito tedesco si avventurasse nell'immenso paese in rivoluzione, attirarlo nel profondo del paese per isolarlo, separarlo dalle sue basi di rifornimento, sottoporlo a una guerriglia partigiana, demoralizzarlo, disgregarlo, eccetera, difendendo così la rivoluzione sociale. Soluzione già utilizzata con successo nel 1812 e sempre praticabile in un paese immenso come la Russia. Quindi questa prima soluzione stava nel dire: noi non continuiamo la guerra, ma facciamo entrare i tedeschi e facciamo fare la rivoluzione anche ai tedeschi. Era certamente una mossa azzardata, ma la gran parte dei rivoluzionari pare che fosse questa il desiderio. La seconda era avviare trattative col comando tedesco per proporgli la pace, trattare e accettarla a qualunque condizione. Questa è la soluzione che sarà adottata dal governo bolscevico e per esempio è interessante anche questo, non tutti la pensavano allo stesso modo, anzi le testimonianze dicono che Lenin era in assoluta minoranza, ma Lenin riesce a imporre la sua analisi, la sua volontà e la sua leadership e quindi si firma il trattato di Brest-Litovsk che praticamente cede completamente l'Ucraina al terreno tedesco. Quindi noi stiamo andando avanti adesso, stiamo andando al 1918, poi con Macno torneremo invece al 1917. Noi abbiamo una situazione che è completamente, possiamo dirlo, sconosciuta nella nostra storia, un'immagine di un'Ucraina che viene occupata gradualmente dai tedeschi o sta venendo occupata dai tedeschi o è stata occupata dai tedeschi, di cui nessuno saprebbe sostanzialmente un granché se non fosse che quello a cui ho chiesto aiuto ci scrive un libro bellissimo che però pochi hanno letto, si trova tranquillamente in libreria, ma mentre di Bulgakov tutti hanno letto Il maestro e Margherita, pochi hanno letto La guardia bianca, che tra l'altro pare che sia anche uno dei motivi per cui Stalin poi non l'ha fatto fuori. Gli ha impedito di scrivere, gli ha reso la vita se non impossibile, ma pare che Stalin amasse tanto questo libro perché descrive quella che è la storia da parte di una famiglia di ufficiali zaristi fondamentalmente, che però stanno a Kiev, e quali sono i loro sentimenti e quali sono il modo in cui si muovono dei russi d'Ucraina appartenenti appunto a una casta militare che era potentissima. Ma non è della famiglia di cui io vi voglio leggere delle pagine appunto del nostro illustre letterato Bulgakov, ma la sua descrizione di Kiev nell'inverno del 1918, un vero e proprio pezzo di storia che se non l'avesse raccontato lui sarebbe nell'oblio più completo. Dovrete avere un pochino di pazienza. Quando parla della città che lui non nomina, sta parlando di Kiev, dove tra l'altro Macno non metterà mai piede. Ed ecco, nell'inverno del 1918 la città viveva una vita strana e innaturale, quale probabilmente non si ripeterà più in tutto il XX secolo. Dietro i muri di pietra tutti gli appartamenti erano stipati. I suoi antichi abitanti si stringevano e continuavano a stringersi, lasciando entrare di buone e di malavoglia i nuovi venuti che affluivano nella città. Questi arrivavano lungo quel ponte slanciato, al di là dove si levavano enigmatici veli di fumo grigio-azzurro. Fuggivano brizzolati banchieri con le loro mogli, fuggivano abili affaristi dopo aver lasciato dei fiduciari a Mosca con l'incarico di non perdere i contatti con il nuovo mondo che nasceva nel regno moscovita. Proprietari di immobili che avevano affidato le loro case a fedeli amministratori segreti, industriali, mercanti, avvocati, politicanti. Fuggivano giornalisti moscoviti e pietroburghesi, prezzolati, avidi e vili, cocotte, oneste dame di aristocratica famiglia, le loro delicate figliole, pallide e dissolute pietroburghesi con le labbra di carminio. Fuggivano segretari dei direttori di dicastero, giovani pederasti passivi, fuggivano principi e bottegai, poeti e usurai, gendarmi e attrici dei teatri imperiali. Tutta questa massa, ingolfandosi in quella strettoia, avanzava alla volta della città. Per tutta la primavera la città continuò a riempirsi di forestieri. Negli appartamenti si dormiva sui divani e sulle sedie. Si pranzava negli appartamenti ricchi attorno ai tavoli in compagnie numerose. Si erano aperti innumerevoli posti ristoro che lavoravano fino a notte fonda. Caffè dove si serviva il caffè, ma si poteva anche comprare una donna. Nuovi teatri di varietà sui cui palcoscenici si dimenavano e divertivano il pubblico, tutti i più noti attori, accorsi dalle due capitali. Era stato aperto il famoso teatro Il Negro Viola e sulla via Nikolaevskaya il maestoso club La Cenere, ritrovo di poeti, registi, artisti, pittori, che acciottolava di piatti fino alla bianca alba. Erano subito apparsi giornali nuovi e le migliori penne di Russia avevano cominciato a pubblicarvi i loro feuilleton dove ingiuriavano i bolscevichi. I cocchieri per giornate intere portavano i clienti da un ristorante all'altro e la notte nei cabaret suonava la musica degli strumenti a corda e attraverso il fumo del tabacco rilucevano di naturale bellezza i volti di pallide, sfinite e cocainizzate prostitute. La città si gonfiava, si dilatava, traboccava come una pasta lievitata. Fino all'alba frusciavano i club dove giocavano personalità pietroburghesi e personalità cittadine, superbi e boriosi luogotenenti e maggiori tedeschi che i russi temevano e riverivano. Giocavano i furfanti dei club moscoviti e i proprietari terreni ucraino-russi, ormai sull'orlo del baratro. Nel caffè Maxim da un violino traeva trilli d'usignolo un rumeno pastoso e affascinante e i suoi occhi erano meravigliosi, tristi, struggenti, velati d'azzurro e i suoi capelli vellutati. Le lampade, avvolte in scialli zingareschi, gettavano due fasci di luce, elettrica luce bianca verso il basso, ma color arancio di lato e verso l'alto. Il soffitto si distendeva come una stella di polverosa seta celeste. Nei palchi azzurri sfavillavano vistosi brillanti e lucevano fulve pellicce siberiane. E si spandeva un odore di caffè tostato, di sudore, di alcol, di profumi francesi. Per tutta l'estate del 1918 tronfi cocchieri avvolti in caffettani ovattati scorrazzarono per la Nikolaevskaya e fino all'alba le automobili in fila gettarono coni di luce. Nelle vetrine dei negozi lussureggiavano selve di fiori, pendevano come pertiche di grasso dorato dorsi di storione affumicato, languidamente scintillavano ornate di aquile e sigilli le bottiglie dell'eccellente champagne Arbrau. Per tutta l'estate affluì senza posa gente nuova. Arrivarono bianchi tenori cartilagine dalla barba grigiastra ben rasa sul volto, con le scarpe laccate rilucenti e gli occhi sfrontati, membri della Duma di Stato, puttane dai cognomi altisonanti, giocatori di biliardo. Portavano le ragazze nei negozi a comprare il rossetto per le labbra e le mutande di batista dagli spacchi vertiginosi. Comperavano lo smalto alle ragazze. Mandavano lettere attraverso l'unico sfiatatoio, attraverso la torbida Polonia. Nessuno sapeva, a dir la verità, cosa vi succedesse e che cosa fosse questo nuovo paese, la Polonia, verso la Germania. Il grande paese degli onesti teutoni, chiedendo visti, trasferendo soldi, nel presentimento che sarebbe toccato loro di andare sempre più lontano, laddove in nessun caso sarebbe arrivata la terribile battaglia, il fragore delle bellicose schiere bolscevichiche. sognavano la Francia, Parigi, si malinconivano al pensiero che era molto difficile, quasi impossibile arrivarci. E si malinconivano anche di più quando erano presi dai pensieri terribili e non del tutto chiari che li assalivano all'improvviso nelle notti insonni passate sui canapè altrui. E se a un tratto, se salta questo cordone di ferro e arriveranno quelli dai pastrani grigi, terribile, terribile. Pensieri simili nascevano quando da molto lontano si sentivano i colpi attutiti dei cannoni. Chissà perché per tutta quell'estate splendida e calda si sparò nei dintorni della città, nonostante dappertutto i metallici tedeschi salvaguardassero l'ordine e si udivano continuamente dalla periferia dei colpi sordi. Pa, pa, pa. Chi sparasse e contro chi nessuno lo sapeva, questo di notte. Di giorno si tranquillizzavano vedendo di quando in quando passare per la via principale un reggimento di ussari tedeschi. Ah, che reggimento! Berretti di pelo, sopravvisi superbi e soggoli squamati che serravano menti di pietra, baffi rossicci che si drizzavano come frecce. I cavalli degli squadroni avanzavano inquadrati, robusti, bai, e le casacche grigio-azzurre dei 600 cavalleggeri ricordavano le bronzee uniformi dei loro massicci condottieri germanici nei monumenti della piccola Berlino. Quando li vedevano, si rallegravano e si tranquillizzavano ai lontani bolscevichi, digrignando i denti con gioia maligna, dietro il filo spinato della frontiera, dicevano «Fatevi avanti, se avete coraggio!» Li odiavano i bolscevichi, ma non di un odio a viso aperto, quando chi odia vuole combattere e uccidere, ma di un odio vile, perfido, di chi si nasconde nel buio, dietro un angolo. Li odiavano di notte, quando ci si addormentava in una vaga inquietudine. Li odiavano di giorno nei ristoranti, quando si leggevano i giornali che descrivevano come i bolscevichi sparassero alla nuca gli ufficiali. Tutti li odiavano, i mercanti, i banchieri, gli industriali, gli avvocati, gli attori, i proprietari di case, le cocotti, i membri del Consiglio di Stato, gli ingegneri, i medici e gli scrittori. C'erano anche degli ufficiali. Erano fuggiti da nord e da ovest, dal vecchio fronte, e tutti si dirigevano verso la città. Erano moltissimi e aumentavano sempre di più. Rischiavano la vita perché, essendo per la maggior parte privi di denaro e recando su di sé la traccia incancellabile della loro professione, facevano più fatica a ottenere documenti falsi e passare la frontiera. Tuttavia erano riusciti a passare e venire nella città con sguardi da belve inseguite, pidocchiosi e irsuti, senza spalline, e cominciavano a destreggiarsi per mangiare e per vivere. Fra loro c'erano anche alcuni originari della città che ritornavano dalla guerra al vecchio nido con l'idea di riposare e ricominciare da capo la vita, non più quella militare, ma una vita normale, umana. E ce n'erano a centinaia e centinaia di forestieri, i quali non potevano più rimanere né a Pietroburgo né a Mosca. Alcuni di questi, corazzieri, cavalieri e ussari della Guardia Imperiale, galleggiavano facilmente nella schiuma torbida della città inquieta. La guardia del corpo dell'Etmano portava spalline fantastiche e alle tavole dell'Etmano si sedevano fino a 200 unte scriminature di individui sfavillanti di gialli denti marci incapsulati d'oro. Chi non s'era sistemato nella guardia del corpo si sistemava in pregiate pellicce col bavero di castoro e in appartamenti semioscuri rivestiti di quercia intagliata a lipchi nel miglior quartiere della città, nei ristoranti e nelle camere degli alberghi. Altri capitani in seconda di reggimenti sfiniti e sbandati, ussari bellicosi, centinaia di alfieri e sottotenenti, ex studenti che la guerra e la rivoluzione avevano scaraventato fuori del corso della vita, e tenenti, anch'essi ex studenti, ma definitivamente persi per l'università. In grigi pastrani logori, con le ferite non ancora rimarginate, i segni delle spalline strappate, arrivavano nella città e nelle proprie famiglie o presso famiglie estranee dormivano sulle sedie. Si coprivano con i cappotti, bevevano vodka, correvano, s'affaccendavano e ribollivano d'ira. Ecco, questi ultimi odiavano i bolscevichi di un odio acceso e diretto, di quell'odio che può spingere a battersi. Perché mi metto a leggere Bulgakov? perché la storia è immensamente più complicata. Noi stiamo parlando di un anno dopo quello che racconta Macno. Macno non scrive in quel libro che sta qua sopra, non scrive di tutta la guerra e la rivoluzione ucraina, ma parla solo del primo anno. Era nelle sue intenzioni scrivere successivamente di tutta la storia, ma questo verrà lasciato ad altri due libri, uno che verrà scritto subito di Arshinov e l'altro di Volin, che invece dovrà aspettare molti anni per essere pubblicato. Lui non ha più l'intenzione nelle forze di proseguire, ma in questo libro lui racconta il 1917. Ma la cosa interessantissima è il confronto del mondo di cui parla Bulgakov con il mondo invece di cui parla Macno. Ed è un mondo, siamo a pochi chilometri di distanza, lui sta parlando di Kiev, invece Macno parlerà di Guliaipolè. Certo, non è vicinissima, l'Ucraina è grande, ma stiamo parlando dello stesso contesto, eppure si leggono delle distanze incomparabili. La grande distanza che oppone subito gli ucraini di Macno, che al tempo non erano gli ucraini di Macno, lo diventeranno, i gruppi anarcocomunisti, soprattutto lui si rivolge, da quello che sta accadendo nelle due capitali, come le chiamano loro, cioè Mosca e Pietroburgo, è una visione differente che tanti avevano, in qualche modo è accomunata anche ai socialrivoluzionari, cioè il fatto che la forza, la grande forza rivoluzionaria sono i contadini. Naturalmente invece nella rivoluzione condotta poi a un certo punto dal partito bolscevico, invece la forza propulsiva dovrebbero essere gli operai. Loro non si fanno assolutamente intimidire dalla eventuale arretratezza dei contadini, anzi Macno dice sempre chiaramente che la forza liberatrice vera è quella lì dei contadini. E sui contadini, lui contadino era, ma fu anche operaio prima di entrare in galera. Lui non c'è durante la rivoluzione quella che abbatte lo zar, perché stava in galera, finisce in galera giovanissimo. Fortunatamente sua madre lo aveva dichiarato con un anno in meno, perché in realtà la sua pena per le azioni che facevano con il gruppo anarcocomunista lo avrebbe portato a una condanna a morte. Risultando minorenne, fu invece soltanto condannato a lavori forzati, più o meno a vita. Comunque la rivoluzione lo coglie in carcere e lui viene liberato. E nelle risoluzioni che ci sono delle unioni dei contadini di Guliaipolè già vengono espresse chiaramente quelle che sono le loro intenzioni, cioè prendere le terre, dividerle fra i contadini e organizzare delle libere comuni. Quello che si poteva fare, si comincia a fare. E, devo, questo punto lo precisiamo anche oltre, ma va sottolineato il fatto che Macno darà sempre una grande responsabilità agli anarchici, e lo dice anche con rabbia, anche anni dopo. Questo poi lo porterà a delle posizioni sulle quali però non credo che avremo né tempo né voglia di fermarci, che sono delle posizioni che noi oggi differimo organizzatrici, famose posizioni piattaformiste o arcinoviste, sulle quali però diciamo in questo momento possiamo sorvolare. Però di fatto lui spinge moltissimo in tutto quanto il libro alla riflessione sul fatto che la mancanza di organizzazione è stata per lui un grandissimo danno e fonte di sconfitta. Come si muovono, abbattuto lo zarismo? Si muovono in questo modo qua. Cercano di portare avanti le realizzazioni rivoluzionarie. E quindi lui propone, in base proprio al modello contadino dell'esproprio delle terre, l'espropriazione dei capitali privati della banca di Guliaipolè. E questa è la posizione di Macno nella primavera del 1917, siamo tornati un anno prima rispetto a Bulgakov. E dice così, scrive così: era certo che non avremmo potuto conservare nelle nostre mani queste imprese, quando dice di confiscare i beni privati. perché i commissari del governo avrebbero immediatamente inviato dei reggimenti che, per non essere mandati sul fronte tedesco, avrebbero fatto in modo da farsi ben volere dal governo, fucilando i migliori militanti operai e me Macno, in primo luogo. Ma era importante, secondo me, tentare di mettere in pratica da questo momento l'idea delle espropriazioni delle istituzioni capitaliste, prima che il governo provvisorio avesse avuto il tempo di imbrigliare completamente le masse dei lavoratori e di indirizzarle sulla via controrivoluzionaria. Quando parla di governo provvisorio, sicuramente la maggior parte di voi se lo ricordano, però sempre meglio fare un richiamino perché sono passati tanti anni, sarebbe il governo poi prima di Lvov, poi di Kerensky, che fra l'abbattimento dello zarismo e la rivoluzione di ottobre continua la guerra ed è un governo, diciamo, misto, che tendenzialmente tende a diventare socialista, ma in realtà non applica quello che vogliono le masse dei lavoratori. E questo è quello che determinerà poi la rivoluzione d'ottobre. Quindi quello che loro si mettono a... Ah no, stavo continuando, non era ancora finito. La maggioranza dei membri dell'Unione Professionale dei Comitati d'Officina mi chiese di non sottoporre questo progetto alla massa operaia, argomentando che noi stessi eravamo ancora mal preparati a questa azione e saremmo stati costantemente svantaggiati, non facendo così che nuocere alla sua futura realizzazione. Quindi il compito del rivoluzionario anarchico in galera che esce e torna al suo paese è esattamente questo, quello di spingere quanto più possibile in direzione di risultati concreti. Gli stessi suoi compagni gli dicono: andiamo calmi perché noi non ce la facciamo a mantenere questa cosa. Questo però è la cosa interessante, non gli impedisce di andare sul terreno della rivendicazione, potremmo definirlo quasi sindacalista, quindi essere rivoluzionari e andare e premere nella direzione dell'accelerazione dei processi rivoluzionari, ma anche di badare alle esigenze degli operai. E fa un esempio di una bella esempio di una riunione che viene tenuta al Soviet fra operai e proprietari. I padroni delle officine e dei mulini ritornarono al Soviet dell'Unione Professionale con gli stessi desideri e opinioni della vigilia. Dopo 2 ore di discussione spinsero la loro generosità fino a concedere un aumento di salari dal 45 al 60%. Dichiarai allora, quale presidente della riunione, che tutte le trattative tra noi erano rotte. Il Soviet dell'Unione Professionale mi ha dato pieni poteri per assumere la direzione di tutte le imprese pubbliche che voi cittadini, sta parlando ai proprietari, dirigete, ma che non vi appartengono di diritto. Ci spiegheremo con voi nella strada davanti a ognuna di queste imprese. Tolgo la seduta. A questo punto il padrone della più grande officina di Gulepole, Kerner, si alzò e gridò: Nestor Ivanovich, avete avuto troppa fretta a togliere la seduta. Io considero che le rivendicazioni degli operai sono completamente giustificate, hanno diritto a vederlo soddisfatto e da parte mia le sottoscriverò subito. A questo punto si succede un po' di caos, gli altri proprietari lo aggrediscono, dicono: ma come, a questo al maggior possidente, e insomma si incasinano un po'. Lui fa riaprire, chiede se si può riaprire la seduta e vi prego, disse, di sottoscrivere allora a tutti l'aumento dall'80 al 100%. Quindi questo è un vero e proprio esempio di non è soltanto una rivoluzione spinta in direzione dell'abbattimento, della conquista del potere politico, ognuno ha i suoi gusti, ma proprio del miglioramento delle condizioni, cioè si fa il massimo di quello che si può fare. A questo punto a Guliaipolis si cominciano a precipitare propagandisti, agenti del governo, per capire che cosa stava succedendo, e lui dice: andavano via senza risultati, vinti dall'azione dei contadini e degli operai anarchici. Contadini, questi erano gli operai, contadini, si era al mese di luglio, siamo andati avanti nel processo rivoluzionario, siamo a luglio 1917. I contadini della regione di Gulliepole si rifiutarono di pagare la seconda parte ai proprietari, sperando di riprendere loro la terra dopo la mietitura, senza entrare in discussione, né con loro né con le autorità che li proteggevano, e di dividerla in seguito fra tutti coloro, contadini e operai, che desideravano coltivarla. Molti comuni seguirono il nostro esempio, le autorità di Aleksandrovsk e i loro agenti socialisti furono molto impressionati e con l'aiuto tecnico e finanziario del commissario del governo i comuni rivoluzionari furono infestati di propagandisti agitatori che invitavano i contadini a non scuotere il prestigio del governo provvisorio, che dicevano loro aveva molto a cuore la sorte dei contadini e aveva intenzione di convocare al più presto un'assemblea costituente che avrebbe espresso la sua opinione sulla riforma agraria. Quindi chiaramente ci sono gli agenti del governo che dicono no, state fermi, state buoni, non spingete i processi troppo avanti perché questo è molto pericoloso, quindi abbiate fiducia nel governo provvisorio. Loro fanno esattamente il lavoro opposto. Un mese dopo, ad agosto, c'è un tentativo controrivoluzionario del generale Kornilov che viene sconfitto dall'esercito del governo provvisorio, ma viene sconfitto sostanzialmente dalle forze dei rivoluzionari, e quindi si ha un processo di accelerazione in questo senso e loro vanno a togliere le armi a quelle che reputano loro le forze reazionarie. Quindi si partono, vanno a casa delle persone, dei proprietari che hanno le armi e gliele sequestrano. Dice: così la borghesia fu disarmata e le sue armi furono distribuite fra i contadini rivoluzionari. Il disarmo fu eseguito senza spargimento di sangue. Il gruppo anarchico propose di espropriare le terre e le proprietà e di organizzarvi delle comuni agricole libere, con la partecipazione nella misura del possibile di quegli stessi proprietari. Se questi avessero rifiutato di far parte dei liberi lavoratori e avessero espresso il desiderio di lavorare individualmente, si sarebbe assegnato loro parte dei beni nazionali che avevano posseduto e dar loro i mezzi per vivere lavorando senza far parte delle comuni agricole. Ma questa è la differenza, senza avere dipendenti. Quindi loro dicono: noi facciamo le comuni, voi volete lavorare, però non potrete avere dei dipendenti, ve la dovete lavorare da voi. Quindi, come vediamo, diciamo, ma roba piena di buonsenso alla fine, estremisti e pieni di buonsenso al tempo stesso. Il congresso votò questa risoluzione. Il congresso regionale dei lavoratori di Gallipoli condanna energicamente le pretese del governo provvisorio di Pietrogrado e della Rada centrale ucraina di Kiev di dirigere la vita dei lavoratori e invita i soviet locali e tutta la popolazione proletaria organizzata a ignorare tutti gli ordini governativi. Il popolo deve essere sovrano a casa propria. È finalmente giunta l'ora di realizzare il suo sogno secolare. D'ora in poi la terra, le fabbriche e le officine devono appartenere ai lavoratori. I contadini devono essere padroni delle terre, gli operai delle fabbriche e delle officine. Necessita senza indugio che i contadini caccino dalle loro terre tutti i proprietari che rifiutano di lavorare con le loro mani e che organizzino nelle loro proprietà rurali delle comuni agricole libere, composte di volontari, contadini e operai. Il congresso riconosce che l'iniziativa di questa decisione proviene dal gruppo anarcocomunista e gliene affida la realizzazione. Ovviamente chiunque di noi conosce un po' la storia dei movimenti rivoluzionari sa benissimo che questa idea delle comuni agricole, che i contadini si prendessero la terra e facessero le comuni agricole, è un'idea che il partito bolscevico considera un'idea arretrata. E in quanto arretrata, borghese, piccolo borghese e reazionaria, invece loro la pensavano in una maniera totalmente diversa. È questo che poi porterà allo scontro che però, diciamo, Macno in questa fase racconta, ma racconta poco. Per il momento hanno a che fare con ben altra gente. Speravamo, questo torna a parlare Macno, speravamo che i successi locali dell'azione rivoluzionaria diretta dei lavoratori avrebbero risolta la questione agraria in modo definitivo e giusto, prima della convocazione dell'Assemblea Costituente, e avrebbero deciso così nello stesso modo della sorte della proprietà privata sulle officine, fabbriche e altre imprese pubbliche. Avendo sotto gli occhi l'esempio dei contadini, gli operai non avrebbero più voluto restare schiavi dei padroni di queste imprese, che avrebbero proclamate proprietà della comunità e poste sotto la direzione immediata dei loro comitati d'officina. Quindi, come si vede, il procedimento è esattamente inverso rispetto a quello marxista-leninista. Cioè, non sono gli operai che conducono i contadini, ma sono i contadini che, semplicemente attraverso il loro esempio e non attraverso un'egemonia, invece spiegano agli operai come si deve fare. Operai, sapete cosa dovete fare? Dovete prendervi gli strumenti di lavoro e gestirli da voi, in prima persona. Questo sarebbe stato l'inizio della lotta contro il potere politico del governo, a condizione che i gruppi anarchici delle città fossero pronti, e così la sorte dei principi stessi del governo sarebbe stata un fatto compiuto. Non sarebbe rimasto che da sotterrare questi principi più profondamente possibile, affinché, non trovando più posto nella vita, non avessero potuto mai resuscitare. Quindi lui pensa moltissimo alla questione dell'azione degli anarchici come azione volontaria, come azione, possiamo dire, militante, con una visione volontaristica che assomiglia molto a quella di Malatesta e molto poco a quella degli individualisti. Io amo moltissimo Max Noè e Malatesta, però non riesco ad avere la loro fiducia nella militanza. Ma è bellissima la descrizione di quando finalmente arriva a Ekaterinoslav, dove cerca i suoi compagni anarchici, quelli in galera, dove c'è una grande organizzazione anarchica, secondo lui, e lui vuole andare lì e porgli delle domande. Che domande vuole porre ai suoi compagni di città? Ce lo dice lui. Ero particolarmente felice di andare a Ekaterinoslav, dove speravo di prendere contatto con la federazione anarchica e di intrattenermi personalmente su tutte le questioni che interessavano il nostro gruppo. Quella che mi interessava di più era questa: perché la città non invia dei propagandisti anarchici nei villaggi? Partì per il congresso appositamente un giorno prima e mi recai direttamente dalla sede della federazione. Vi trovai il segretario, il compagno Molchansky di Odessa, vecchio compagno che avevo conosciuto ai lavori forzati. Questa fu una grande gioia, ci abbracciammo, ma gli fui subito addosso. Che cosa facevano in città? Perché non invitavano organizzatori nei centri rurali? Il compagno Molchansky, secondo la sua abitudine, gesticolò, si agitò, qua ci vorrebbe un attore per fare Molchansky che gesticola, io non sono un attore, mi dispiace, e disse: non abbiamo forze, fratello, siamo deboli, ci siamo appena organizzati qui e bastiamo appena ai bisogni degli operai delle nostre officine e dei soldati della nostra guarnigione. Speriamo che col tempo le nostre forze aumentino e allora stringeremo i nostri legami con le campagne e stabiliremo un'energica propaganda nei villaggi. Mi condusse poi al circolo della federazione, l'ex club inglese. Vi trovai numerosi compagni. Alcuni conversavano sulla rivoluzione, altri leggevano, alcuni infine mangiavano. In una parola, vi trovai la società, virgolette, anarchica, che per principio non ammette presso di sé nessun ordine, alcuna autorità e non dedica alcun momento alla propaganda fra la massa dei lavoratori delle campagne che pure ne hanno un così gran bisogno. Mi domandai allora perché dunque hanno preso alla borghesia un edificio così lussuoso e così grande. A cosa può servir loro dal momento che in questa folla urlante non vi è alcun ordine, neppure nelle grida con le quali risolvono i più gravi problemi della rivoluzione, e che la loro sala non è spazzata, che le sedie sono rovesciate e che sulla grande tavola, ricoperta di un velluto lussuoso, lasciano croste di pane, teste di aringa e ossa rosicchiate. Devo dire la verità, prima di chiamarsi bandierine giallo-blu sulla tomba di Nestor Makhno, in cuor mio questa lettura si chiamava teste di aringa e ossa rosicchiate, però è un po' troppo esoterica, non si capisce tanto. Quindi ho preferito l'altra formulazione. Però è bellissima il fatto, lui il super combattente, l'organizzatore che arriva e si sconforta che nessuno fa una scopata a terra, che nessuno alza le sedie che sono cadute e che lasciano le teste da ringa rosicchiate sul velluto del club inglese. Io non sono, diciamo, forse sono più dalla parte dei rosicchiatori di teste da ringa, no, neanche, però comunque questo spiega tanto di quello che succede dopo. La rabbia di quello che poteva essere e non è stato. Poi, che fossero veramente le teste di aringa, questo è tutto un altro discorso. si doveva, dice Macno, far capire che gli intenti del partito bolscevico e dei socialrivoluzionari di sinistra era solo di instaurare un altro governo e non di liberare i popoli, ma bisognava aprire gli occhi alla popolazione. E torno a leggere Macno: chi poteva farlo se non gli anarchici? Ma quali legami avevano gli anarchici in questo momento della rivoluzione con la massa dei lavoratori? La grande maggioranza di coloro che si pretendevano i capi dell'anarchismo russo si trovava al di fuori dell'azione diretta rivoluzionaria. Tali erano gli anarcosindacalisti e gli anarcocomunisti più in vista. Non parlo degli individualisti che non esistevano in Russia né tantomeno in Ucraina. Non essendo organizzati, gli anarchici mancavano di unità d'azione. I bolscevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra, al contrario, approfittarono della fiducia dei lavoratori nella rivoluzione, opponendo metodicamente agli interessi di quest'ultimo i loro interessi di partito. Abbordarono più risolutamente le masse, allettandoli con il motto «il potere ai soviet locali», stabilirono a spese dei lavoratori il loro potere politico di partito statalista. Quando Macno si impegna in questa direzione, la cosa interessantissima è che tenete presente che Macron scrive ormai completamente isolato in Francia, fuori dal processo rivoluzionario, si è riuscito per miracolo a salvare tanti anni dopo, che queste frasi che leggerò adesso lui ha la trasparenza di scriverle. Stiamo parlando di una persona intelligentissima, pur sempre di un contadino, che aveva visto il suo percorso rivoluzionario poi tanto organizzando e tanto sparando alla gente, grande combattente. Quando lui porta al gruppo anarcocomunista e ai suoi giovani compagni il principio non separarsi dalla massa, fondersi con essa senza smettere di essere se stessi, fedeli al proprio ideale, e utilizzare con un approccio pragmatico una, lui dice, tattica che si ispirasse alle esigenze del momento, lui riporta le critiche che gli fanno i suoi compagni. Questa è una cosa interessantissima. E scrive così: all'inizio questa tattica sollevò le proteste di quei membri del gruppo che, pur essendo completamente devoti alla causa, non erano per questo meno sostenitori delle vecchie idee, cioè il rifiuto dell'organizzazione, dell'unità di azione, della possibilità di realizzare i suoi principi, pur restando anarchici, sotto un regime non anarchico e neppur veramente socialista. Questi compagni mi dicevano: compagno Nestor, tu devi aver portato dalla prigione dei principi statalisti per il lavoro e temiamo che tu li accetti completamente e che siamo costretti a separarci. Cioè lui 10 anni dopo scrive che è stato accusato dai suoi compagni di portare dei principi statalisti. Questa desta in me un'ammirazione sconfinata per quest'uomo, che non solo ha il tempo di scrivere tutti i tradimenti subiti e tutte le lotte fatte, ma anche del fatto, dice, che c'erano dei compagni che erano critici nei suoi confronti perché lo ritrovavano eccessivamente moderato. Una parentesi. Questa parentesi si chiama, uno dei tanti libri che non scriverò mai, ne ho scritti un paio, poi ce ne ho 25 da scrivere, non lo scriverò mai, quindi ve lo racconto in due frasi, si chiama Invidia per i tolstoiani. Nel senso che soprattutto nel nostro biennio 2020-21, che io chiamo il biennio marrone, dove la popolazione mondiale ha dimostrato che la formazione che più le piace è quella del gregge, ho pensato che sarebbe stato bellissimo costituire un grande movimento non violento. Però il problema con i non violenti che io ho è che loro, come Tolstoi, come Martin Luther King, come tutte queste persone che hanno fatto delle cose, è che loro hanno una fede, soprattutto hanno una fede in una pace che arriverà comunque oltre, in un altro mondo. Io sono invidioso con loro perché non ce l'ho questa fede, quindi essere non violenti come atteggiamento pragmatico è un percorso interessante. Ci vuole qualcuno che si metta a capo di un movimento libertario non violento laico, non sarò io sicuro. E quando leggo Macno si acuisce questa invidia per i tolstoiani e queste perplessità da che parte stare, quando lui descrive l'incontro dopo la rivoluzione con un poliziotto conosciuto. E questo è un raccontino, sta per strada a Guliaipolè. Nazar Onichtenko mi abbordò nel centro stesso di Guliaipolè. Era lo stesso poliziotto e agente segreto che durante una perquisizione a casa mia aveva permesso che si perquisisse mia madre e che alle sue proteste l'aveva schiaffeggiata. Ora questo cane, venduto corpo e anima alla polizia, si precipitò verso di me, togliendosi il berretto, esclamò tendendomi la mano: «Nestor Ivanovic, salute!» La voce, i gesti, la mimica di questo Giuda mi procurarono un disgusto indicibile. Mi misi a tremare d'odio e gli gridai con furore: «Indietro, miserabile, indietro ti uccido!» Egli fece un balzo da parte e divenne bianco come la neve. Inconsciamente portai la mano alla tasca e afferrai febbrilmente la rivoltella, chiedendomi se bisognava uccidere questo cane sulla piazza o se era meglio attendere. La ragione prevalse sul furore e la sete di vendetta. Saputo del mio incontro con Onichtenko, i membri del nostro gruppo e quelli del comitato dell'Unione dei Contadini pretesero la pubblicazione del documento probante, che al tempo stesso che poliziotto, cosa che i contadini sapevano molto bene perché gliene aveva arrestati e bastonati un certo numero, Onichtenko era anche agente della polizia segreta. Tutti i compagni domandarono insistentemente la comunicazione del documento per poter in seguito uccidere il colpevole. Io mi opposi energeticamente e pregai i compagni di lasciarlo tranquillo per il momento, facendo notare che c'erano dei traditori più pericolosi, in particolare Sopliak, che dai documenti che avevamo in mano risultava uno specialista dello spionaggio. Bisognava armarsi di pazienza e fare in modo da mettere le mani sugli altri che, a dire dei contadini, si mostravano spesso a Guliaipolè. Sempre chiedendo ai compagni di non inquietare per il momento Nazar Onichtenko, dissi loro che era importante arrestare tutti questi cani e poi ucciderli perché tali individui erano nocivi a tutta la comunità umana. Una vera rivoluzione deve sterminarli tutti. Una società libera e solidale non ha bisogno dei traditori. Essi devono morire tutti di propria mano o venire uccisi dall'avanguardia rivoluzionaria. Un po', insomma, un po' frizzante come tempo, però la cosa che è interessante è che quando, soprattutto un tempo, portavamo in giro molte iniziative contro il carcere, c'era questo equivoco per cui dice: eh sì, perché gli anarchici se no vogliono perdonare tutti, non vogliono le galere perché pensano che tutti siano buoni. Non è proprio così, sicuramente ci sono degli anarchici non violenti che fidano nella bontà umana, però diciamo, le posizioni di Macnò, che io non ho detto che siano le mie, perché non ho mai sparato a nessuno, assolutamente, però diciamo sono delle posizioni che stanno completamente all'interno del contesto anarchico e più in generale del contesto di opposizione, quella che i nostri compagni comunisti che sono qui chiamano lotta di classe, io non la chiamo così, però diciamo che per esempio appunto un gesto come quello del buon Mangione, che non credo che si ridefinisca né anarchico né altro, però voglio dire, a un certo punto uno pure si rompe il cazzo di subire sempre, lui ne ha subite talmente tanto che a un certo punto ha detto, sembra che abbia detto, mo mi costruisco una pistola e uno me lo faccio, poi fate quello che volete. E sì, è andata così, non lo so, io lo vedo un po' come Macnò, però così un pochino Macnò italo-americano, un po' più a pasta e fagioli, però va bene anche, cioè va bene, è la sua scelta, non è la mia, ma io non ho nessun motivo di condannarlo, di dire che non è abbastanza consapevole da un punto di vista rivoluzionario. A un certo punto ci sono dei conflitti e possono venire in tanti modi. Se riusciamo a fare delle bellissime azioni di massa non violente va benissimo, ma visto che non sembra tanto che ci riusciamo, forse c'ha ragione Mangione, cioè ha ragione Macnò, non lo so, è un punto interrogativo aperto. Altre volte sono, diciamo, ancora un pochino più drastici, per esempio riescono a beccare Karovsky, che era un delatore, ex appartenente al gruppo anarco-comunista di Guliaipolè e responsabile dell'arresto e dell'uccisione nel 1910, 7 anni prima, quindi di uno dei loro più dei migliori compagni, Aleksandr Semenota, e la scrive semplicemente così. A questo punto giunsero altri compagni del nostro gruppo, Filip Krates, Ava Makhno e Pavel Kirostelev, e con loro alcuni membri del gruppo anarchico di Aleksandrovsk. Facemmo allora un interrogatorio a Karovsky, dopodiché uno dei compagni gli cacciò una pallottola nella testa. Diciamo sì, non è molto un processo democratico, diciamo, è stato un po' andato un po' per le spicce, però appunto, quello che hanno fatto loro non è nel caso né di rivendicarlo, né di esaltarlo, né di condannarlo, è una delle tante pratiche possibili, poi ognuno nelle fasi storiche si misura con quello che gli capita. Ma veniamo al nazionalismo, perché tutto questo nasce dal fatto che, insomma, ha un po' rotto le palle sta storia di Macron usato in quella chiave, degli anarchici, sedicenti anarchici che si infilano nell'esercito ucraino a andare a combattere contro i russi cattivi a fianco a battaglione Azov e compagnia. E poi appunto a un certo punto è arrivato sto compagno di Roma che mi ha portato la fotografia che è stata sulla tomba di Nestor Macron a Parigi e mi ha fatto vedere, ci hanno messo le bandierine ucraine. E vabbè, tutto possiamo dire, ma a me va bene anche che uno sia nazionalista ucraino, tanto abbiamo visto tutto, però non facciamo dire per piacere a Macron non una cosa che lui non ha detto, ma quando lui ha proprio detto esattamente il contrario. Quindi parla lui adesso. Il 31 dicembre mi trovavo nel villaggio di Pologui, dove appresi che ad Aleksandrovsk era cominciata una battaglia tra un distaccamento della Guardia Rossa di un gruppo di Bogdanov e delle unità Aidamaki della Rada Centrale. Sarebbero socialisti nazionalisti alleati in quel momento con i tedeschi contro i bolscevichi. Cioè della roba veramente, una confusione storica. L'ho letto 50.000 volte e ancora adesso mi stupisco di quello che sono stati capaci di combinare. In un momento simile era impossibile restare inattivi, tanto più che la popolazione era nettamente ostile alla Rada Centrale Ucraina, i cui agenti percollevano la regione perseguitando incessantemente i rivoluzionari, trattandoli da traditori della madre Ucraina, da partigiani dei cazzapi, che sarebbe un termine dispregiativo per indicare i russi, che bisognava sterminare quali mortali nemici della lingua ucraina. Simili accuse offendevano i contadini che gettavano giù dalla tribuna coloro che le formulavano e bastonavano di santa ragione i nemici dell'unione fraterna con il popolo russo. Questo scrive Macron. Non scrive arruolatevi nell'esercito ucraino perché i russi sono cattivi. Dicono che la rivoluzione, il popolo ucraino, il popolo russo, in unione fraterna la dovevano fare insieme. Come cazzo vi viene in mente di mettere le bandierine giallo-blu sulla tomba di Macron? Io non le riesco a capire queste cose. Sono vecchio e non le riesco a capire. Torna lui adesso. Questa propaganda dei patriottardi ucraini spinse i lavoratori della regione di Gallipoli sulla via della lotta armata contro ogni tentativo separatista ucraino, perché la popolazione vedeva nello sciovinismo la morte della rivoluzione. Mentre ad Aleksandrovsk gli Aidamaki si battevano contro le guardie rosse, alcuni scaglioni di cosacchi provenienti dal fronte tedesco andavano a raggiungere l'armata del generale Kaledin che si trovava sulle rive del Don. Si va a preparare quello che saranno gli eserciti bianchi che poi costituiranno la grande battaglia dell'esercito macnovista che militarmente vincerà contro i bianchi, perderà contro l'armata rossa di Trotsky, la sconfitta sarà con l'armata rossa di Trotsky, ma vincerà su tutti gli eserciti bianchi. Come si riconoscono gli amici e i nemici? Questo va spiegato a volte ai più giovani. Così. Fin dal nostro arrivo ad Aleksandrovsk protestammo contro la mancata liberazione dei detenuti. Per qual motivo non si vuotava la prigione? Parecchi contadini ed operai erano stati arrestati e imprigionati solo per non aver riconosciuto il potere di Kerensky e della Rada Centrale Ucraina. Se non erano stati liberati, ci spiegò un bolscevico, era per timore di vederli insorgere ugualmente contro il potere del blocco bolscevico socialista rivoluzionario di sinistra. Dopo esserci consigliati con gli operai che avevano attirato la nostra attenzione sui detenuti, decidemmo di inviare un rappresentante del comitato rivoluzionario per ottenere l'immediata liberazione dei prigionieri. Sarebbe stato solo in caso di rifiuto da parte del comitato che saremmo andati ad aprire tutti i portoni della prigione e incendiare l'edificio. Fui dunque designato dal nostro distaccamento per andare al comitato rivoluzionario che mi delegò a procedere alla liberazione dei detenuti. Ci recammo alla prigione, ascoltammo le lamentele dei detenuti, passammo alla direzione e ci separammo. In effetti non eravamo al completo. Il delegato principale, il bolscevico Lepic, mancava. Già in quel momento nei corridoi lo si destinava alla presidenza della CECA, per quanto non lo si confessasse ancora. Conoscevo questa prigione per avervi soggiornato 2 volte, sapevo fino a che punto fosse sporca e insopportabile. Tuttavia mi limitai a formulare alcune critiche nei confronti di Lepic, uscì dalla prigione e mi feci condurre al comitato rivoluzionario. Ci riunimmo la sera stessa e decidemmo di metterci all'opera senza indugi. La prigione fu vuotata. E questo è un altro bel esempio di che cosa possono fare delle persone che hanno delle riflessioni più, come dire, più acute. Quindi, grazie all'intervento di Macnoe e dei suoi, quello che era una prigione ancora piena diventa una prigione vuota. Questa, per esempio, è una caratteristica che è stata anche in Spagna, potremmo dire in qualche modo forse, non dico esclusiva, ma in cui si sono riconosciute le organizzazioni anarchiche. Quando si arriva in un posto, non utilizzare la prigione per mettervi dell'altra gente, ma semplicemente svuotarla. Barcellona 36 è stato un buon esempio in proposito. E parlando di invece Ekaterinoslav, dice: avevo provato più di una volta il desiderio di far saltare la prigione, ma non avevo potuto procurarmi un quantitativo sufficiente di dinamite. Ne avevo parlato al socialista rivoluzionario di sinistra Kirgorodovsky e a Maria Nikiforova, ma entrambi spaventati fecero in modo da sovraccaricarmi di lavoro per impedirmi di entrare in rapporto con le guardie rosse, le cui riserve di esplosivo erano considerevoli. Le cattive compagnie. Lo spirito rivoluzionario dei bolscevichi e dei socialisti rivoluzionari di sinistra cominciava a modificarsi visibilmente. Non cercavano che di dominare la rivoluzione. Presentivo che il blocco di questi due partiti era una finzione e che prima o poi uno dei due avrebbe assorbito o divorato brutalmente l'altro, poiché entrambi sostenevano il principio dello Stato e della sua autorità sulla libera comunità dei lavoratori. E a questo proposito vengono delle parole che sono delle pagine che sono conosciute, che io non ripeterò perché sono lunghe e poi già vi sto annoiando mortalmente, sul tentativo riuscito che fanno loro di fare direttamente lo scambio fra i contadini che avevano il grano e gli operai che avevano del tessuto. Una volta ci riescono, ma ci riescono nonostante l'opposizione drastica dei comunisti, perché per i bolscevichi le direttive devono venire dall'alto e quella è la volta in cui loro, benché siano in quel momento alleati, ma si scontrano col fatto che il dirigere il processo rivoluzionario è più importante per i bolscevichi che non farlo, e quindi descrive in diverse pagine tutte le vicissitudini di questi rotoli di stoffa e di questi vagoni di grano che alla fine vanno per una volta in porto e poi dopo non glielo faranno più fare, glielo impediranno. D'altronde è una situazione di guerra totale con tantissime fazioni differenti. Siamo a marzo adesso, siamo arrivati a marzo 1918, appena prima di quello che racconta Bulgakov. Vi ricordate che parla dei banchieri, dei mercanti, degli ufficiali e i contadini nello stesso momento che cosa facevano pochi mesi prima? Si organizzavano. Alcuni contadini ed operai, organizzati fin dall'autunno in comuni agricole, lasciavano i loro villaggi con le loro famiglie. Prendevano possesso delle proprietà senza badare al fatto che i distaccamenti di combattimento delle guardie rosse del blocco bolscevico socialista rivoluzionario di sinistra, dopo accordo con gli imperatori d'Austria e Germania, evacuavano l'Ucraina, abbandonandola con le sue deboli formazioni di combattenti rivoluzionari a una lotta impari con le truppe tedesche e austriache, sostenute dalle bande armate della Rada Centrale Ucraina. Appena installate queste comunità agricole, si misero a organizzare le proprie forze, gli uni nei lavori di primavera, gli altri dei distaccamenti di combattimento. Queste comuni erano basate sull'uguaglianza e la solidarietà dei loro membri. La cucina era comune il refettorio pure, ma il desiderio di uno dei membri della comune di preparare lui stesso i pasti per sé e per i propri bambini o di partecipare alla cucina comune e portare i pasti a casa propria non incontrava alcuna opposizione da parte degli altri membri. Ogni membro della comune si poteva organizzare come voleva per la propria alimentazione, a condizione di avvisare gli altri membri della comune, affinché in cucina e nella dispensa potessero essere prese le misure necessarie per queste modifiche. I membri erano tenuti ad alzarsi di buon'ora e mettersi al lavoro con buoi, cavalli e in altre faccende domestiche. Quindi non è la comune hippie San Francisco, perché quando Sam McNaw dice erano tenuti ad alzarsi di buon'ora, significa che erano tenuti ad alzarsi di buon'ora. Però vabbè, diciamo che il fatto stesso che in questa situazione di guerra totale che stanno vivendo pensano a organizzare le comuni, comunque è una cosa assolutamente interessante. I bolscevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra si affrettarono ad agire contro le azioni rivoluzionarie dirette dai lavoratori e non solo permisero al governo di Lenin di imbrigliare i lavoratori rivoluzionari delle città e delle campagne con decreti venuti dall'alto, ma vi contribuirono personalmente aiutando così a disorganizzare i lavoratori nel momento in cui per la prima volta questi riuscivano ad unire efficacemente le loro forze rivoluzionarie. Seconda parte sul nazionalismo. Passato qualche mese, siamo a marzo del 1918. Racconta così McNaw. Nel marzo 1918 la città di Kiev e la maggior parte dell'Ucraina, situata alla destra del Dnepr, fu occupata dalle armate tedesche e austro-ungariche. Dopo essersi accordate con la Rada Centrale Ucraina, diretta da socialisti ucraini, queste armate entrarono sul suolo ucraino e iniziarono il loro attacco contro la rivoluzione. La situazione è complicatissima perché ci sono un gran numero di formazioni politiche armate che vanno a contendere su questi terreni incrociati. Molti di loro si definiscono socialisti, molti di loro sono ex zaristi diventati improvvisamente da un giorno all'altro, come quelli di cui racconta Bulgakov, diventati improvvisamente ai servizi dell'Etmano, che poi fuggirà nel nulla. Altri si organizzano, per esempio il gran parte della Guardia Bianca di Bulgakov è imperniata sulla figura di Petliura, un intellettuale socialista nazionalista che si oppone alle forze della Rada Centrale nazionaliste, ma aristocrateggianti, in nome di una forza plebea che si mette come primo compito quello di far fuori quanto più ufficiali ex zaristi ci sono e possibilmente tutti gli ebrei che incontrano. Sottolineo questa cosa. Chi dice perché c'è questa diffamazione in campo marxista-leninista molto diffusa che McNaw avesse posizioni antisemite? Questa è una cosa assolutamente infondata. Che delle posizioni antisemite fossero diffusissime in Ucraina, questa è una realtà storica. Che all'interno di tutti i gruppi organizzati ci potessero essere delle fasi di antisemitismo, questo c'era, ma che l'esercito macnovista si fosse macchiato di pogrom o di uccisione di ebrei in quanto tali, questo è un semplice falso storico. Dibattito a Gouliaipolé. Su che cosa? Sul fatto che stanno arrivando i tedeschi. Che cosa si fa? Chi si segue? La Rada Centrale Ucraina o si continua la rivoluzione? Durante tutto questo periodo non trascorse un giorno nella stessa Gouliaipolé in tutta la regione senza un raduno nel corso del quale non si cercasse di portare i lavoratori a rinnegare la rivoluzione a favore della controrivoluzione. L'invasione da parte delle spie e dei provocatori della parte più rivoluzionaria dell'Ucraina ebbe come risultato quella di unire tutti i patriottardi ucraini di Gouliaipolé in un'organizzazione di carattere, tra virgolette, rivoluzionario, che si diede l'etichetta di, tra virgolette, socialista rivoluzionario. Tutti si chiamavano socialisti. La maggior parte dei suoi capi erano grossi proprietari terrieri che guardavano con ira l'opera della rivoluzione che li privava delle loro terre a vantaggio della comunità. Quando acquisirono la convinzione che l'ispiratore delle soluzioni delle questioni agrare era il gruppo contadino anarco-comunista di Guglielmo Polè, tentarono prima segretamente, poi apertamente di dichiarare gli anarchici ladri e briganti, che non tenevano conto delle leggi della rivoluzione né dei limiti che questa non doveva oltrepassare. Annunciavano tutti i giorni nei loro raduni che le armate tedesche austro-ungariche, forti di 600.000 uomini, e i distaccamenti della Rada Centrale Ucraina avanzavano calpestando tutte le forze vive della rivoluzione. E poiché i lavoratori rivoluzionari, considerando la libertà di parola diritto inalienabile quanto la libertà di opinione, non li ostacolavano nella loro odiosa propaganda, i socialisti, fra virgolette, rivoluzionari si sentirono incoraggiati e organizzarono un'assemblea generale dei lavoratori. Questa assemblea prometteva di essere delle più interessanti. Gli organizzatori dovevano proporre il seguente quesito: chi era con la Rada Centrale Ucraina e quindi con il militarismo tedesco e chi contro? E sotto quale bandiera si sarebbe schierato? Siamo vicini alla conclusione, non vi preoccupate. Gli oratori mentirono senza la minima vergogna. Per la madre Ucraina, per il suo governo indipendente, le sue prigioni, i suoi carcerieri, i suoi boia, tutto doveva perire senza resistenza. Coloro che non avessero opposto resistenza avrebbero ricevuto dal comando tedesco, tramite la Rada Centrale, zucchero, tessuti e calzature. Ma per coloro che resisteranno non vi sarà grazia, i villaggi saranno distrutti dal fuoco e un prigioniero su 10 sarà fucilato. Gli altri subiranno un terribile castigo da parte dei loro fratelli ucraini. Tuttavia, i partigiani della Rada Centrale si andarono a trovare in minoranza assoluta e fu votata una risoluzione che invitava a sostenere un'attiva lotta armata contro la Rada Centrale e le armate controrivoluzionarie tedesche austro-ungarico. Allora il sottotenente Semeniuta Reabko, il leader dell'organizzazione patriottarda, salì alla tribuna e con voce marziale annunciò ai lavoratori: «Non importa, un giorno ve ne pentirete, ma non si perdonerà a tutti e soprattutto agli anarchici. Non è lontana l'ora in cui la nostra armata entrerà a Guglielmo Polè. Ci spiegheremo in quel momento. Ricordatevi che i nostri alleati, i tedeschi, sono forti. Ci aiuteranno a ristabilire l'ordine nel paese e non vedrete più anarchici accanto a voi. È in prigione che prodigherete le vostre idee». A questo punto gli anarchici si ritirano. I patriottardi, come li chiama Macnò, prendono questa loro ritirata come un atto di timore. Si sono spaventati alle parole del sottotenente, il leader dei nazionalisti, e quindi li sfottono, li prendono proprio in giro mentre se ne stanno andando. Allora Macnò sente che tira una brutta aria, va al comitato rivoluzionario e dice: qua non vanno bene le minacce agli anarchici, qua rischiamo di andare allo scontro. E il comitato gli dice: vabbè, ma è roba irrilevante, tu non te ne devi preoccupare, abbiamo ben altro a cui pensare. Lui si mette là, fa trattative diplomatiche, diverse ore passano in questo suo tentativo diplomatico e alla fine gli dicono: va bene, il comitato dice va bene, ci adopereremo per la risoluzione del conflitto. E qui, diciamo, c'è una cosa, possiamo chiamarla, vabbè, particolare, insomma. Va al gruppo anarco-comunista e dice: era già troppo tardi. Il gruppo contadino anarco-comunista di Guglielmo Polè fece sapere al comitato rivoluzionario che dichiarava il terrore contro tutti coloro che avrebbero osato perseguitare l'idea anarchica e i suoi sostenitori. Il primo atto da compiere su questa linea era l'esecuzione del sottotenente Semeniuta Reabko, atto già compiuto da membri del gruppo che lo avevano ucciso ed erano pronti ad uccidere in futuro simili individui nocivi. Io andai poi alla riunione del gruppo dove chiesi ai miei compagni di rinunciare al terrore. E ancora qui, scusate la parentesi, la mia ammirazione per quest'uomo è sconfinata. Ma fui coperto di rimproveri. Parecchi miei compagni credettero di vedere nella mia richiesta il desiderio di difendere le azioni dei controrivoluzionari e non mi lesinarono le canzonature. Cioè lui racconta che lo pigliavano per il culo gente che magari aveva 15 anni meno di lui e aveva sparato a quello 10 minuti prima. è un uomo fantastico. Questa, soprattutto per come conclude, come concludo la sua lettura, questa audacia mi irritò, ma l'indipendenza di giudizio di cui era espressione mi rallegrò, perché mi faceva sentire che la mia attività fra i giovani del gruppo non era andata perduta. Un grande uomo. E beh, poi c'è tutto il libro. Come andrà dopo il 1918? Andrà a un tempo stesso, io scrivo, benissimo e malissimo. Benissimo perché riescono a organizzare un esercito rivoluzionario che compie delle imprese assolutamente, possiamo dire, mitologiche. Riesce a fermare la controrivoluzione, riesce a fermare l'esercito di Denikin che era partito per arrivare a Mosca, lo fermano loro, e poi appunto la storia è andata così. La storia è andata così, un esercito grande, disciplinato, comandato da un gruppo di esperti rivoluzionari, entra in uno scontro a un certo punto, prima si accordano, poi entrano in uno scontro a tutto campo e naturalmente l'Armata Rossa, lo sappiamo, distrugge l'autogestione, l'Armata Macnovista e tutte le forme di autogestione che avevano messo in campo. Ci tengo molto perché mi è capitato di frequente appunto di trovare un'informazione opaca in merito, a leggere un documento che è successivo agli eventi che stiamo dicendo, ma la guerra è ancora in corso, la guerra non è ancora finita, non è ancora sconfitta la rivoluzione anarchica, e questo non è a firma di Macno, ovviamente, a firma invece dei commutati macnovisti, dell'esercito macnovista, e sono le loro parole. Quindi chiunque si voglia misurare con i macnovisti, nel bene e nel male, io ripeto, io non sono un fan del tipo di organizzazione di Macno, però sono un fan della verità storica. Cos'è la verità storica? Non è la verità religiosa, è quello che uno ha scritto. Cioè, se Macno ha detto la fraterna unione con i compagni russi, non si può dire, non si possono mettere le bandierine giallo-blu sulla sua tomba, e altrettanto mi sento di rispettare questo documento in quello che, sul quale sono d'accordo e in quello su cui non sono d'accordo. Siamo nel 1920. Chi sono i macnovisti? Parlano loro. E per che cosa si battono? I macnovisti sono operai e contadini che insorsero fin dal 1918 contro la tirannia del potere della borghesia germano-magiara, austriaca, etnamita in Ucraina. I macnovisti sono quei lavoratori che per primi innalzarono lo stendardo della lotta contro il governo di Denikin e tutte le altre forme di oppressione, di violenza e di menzogna, qualunque fosse la loro origine. I macnovisti sono quei lavoratori sulla cui fatica la borghesia in generale, ed ora quella sovietica in particolare, ha costruito il proprio benessere ed è diventata grassa e potente. A questo punto, quando fa caldo, io mi spoglio, non mi spoglio nudo, mi spoglio, adesso ve la faccio solo vedere la maglietta che io porto sotto e che faccio vedere perché fa troppo freddo, poi mi ammalo e voi se muoio vi dispiacete. Non... Mi porto, prima ho chiesto aiuto a Bulgakov, adesso chiedo aiuto, chiedo aiuto a un altro molto bravo, perché quando uno non è abbastanza bravo deve chiedere aiuto a quelli più bravi di lui. Bulgakov sicuramente scriverà in un modo che io non potrò mai scrivere così, e così anche questo è uno anche questo è uno che faccia delle cose musicale. Che io, ma neanche voi potrete mai fare. Giusto? Io l'ho fatto bene a portarmi la maglietta con lui. Chi è questo? Questo è un ragazzino che faceva delle cose, ma delle cose che né io né voi potremo mai fare neanche se rinasciamo 500 anni. Perché? Che c'entra? Perché? Perché devo giustificare chi è? Come chi è? Come sarebbe chi è? È vero che stiamo a Milano, ma chi è? Dai, su, mi piace. perché lo portiamo in causa? Per giustificare questo secondo punto, che io lo leggo dopo tanti anni, ma perché potevo censurarlo, potevo non leggere, ma non si può censurare. Perché ci chiamiamo macronovisti? Perché per la prima volta durante i giorni più oscuri della reazione in Ucraina abbiamo visto fra noi un amico leale, ma no, la cui voce di protesta in forma di oppressione dei lavoratori risuonò per tutta l'Ucraina, esortando alla lotta contro tutti i tiranni, malfattori e ciarlatani della politica che ci chiamava. Macno, che ora marcia deciso al nostro fianco verso la meta finale, l'emancipazione del proletariato da ogni forma di oppressione. Io questa cosa in fondo non la riesco a digerire, cioè gli anarchici non hanno capi. Perché vi chiamate macronisti? Però loro lo spiegano. O dovete sapere. Dovete sapere che quando è morto Maradona, poi sono successe due cose, lo sapete. Uno, che l'Argentina ha vinto il Mondiale. Due, che il Napoli ha vinto lo Scudetto, che non vinceva da 30 anni. Quindi a Napoli c'è in atto, già ormai consacrata, una forma di santificazione un po' laica di Maradona. Quindi io li giustifico, i macronovisti, in questo, come giustifico i miei concittadini che hanno santificato Maradona, perdono anche i macronovisti che fecero un po' una disantificazione di Macron. Quindi, siccome non potevo censurare, perché io sono contro la censura, mi sono fatto aiutare da Diego per spiegare questo secondo punto, per aiutarci a tollerare, perché secondo me anche gli anarchici hanno bisogno di fare una riflessione sui capi carismatici. Però passiamo oltre. Che cosa intendiamo per emancipazione? Ti ringrazio. Cosa intendiamo per emancipazione? Il rovesciamento dei governi monarchici, di coalizione, di repubblicani, socialdemocratici e del Partito Comunista Bolscevico, cui deve sostituirsi un ordine indipendente di soviet dei lavoratori, senza più governanti né leggi arbitrarie. Perché il vero ordine dei soviet non è quello instaurato dal governo socialdemocratico comunista bolscevico, che ora si definisce potere sovietico, ma una forma più alta di socialismo antiautoritario e antistatale, che si manifesta nell'organizzazione di una struttura libera, felice e indipendente della vita dei lavoratori, nella quale ciascun individuo, così come la società nel suo complesso, possa costruirsi da sé la propria felicità e il proprio benessere secondo i principi di solidarietà, di amicizia e di uguaglianza. Quarto punto, e la smetto davvero, come consideriamo il sistema dei soviet? I lavoratori devono scegliersi da soli i propri soviet che soddisferanno i desideri dei lavoratori, cioè soviet amministrativi, non soviet di Stato. La terra, le fabbriche, gli stabilimenti, le miniere, le ferrovie e le altre ricchezze popolari devono appartenere a coloro che vi lavorano, ovvero devono essere socializzate. A questo punto io vi chiedo perdono per la lunghissima tormento a cui vi ho sottoposto, però purtroppo poche parole secondo me non bastano, anche queste non bastano sicuramente, però spero di esservi riusciti a dare almeno un'infarinatura di quello che io penso. Uno, appunto, che la realtà è molto complessa e non la dobbiamo banalizzare, ma che una verità storica, appunto, ripeto, che non è la verità assoluta, la verità religiosa, ma la verità di quello che uno ha detto e quello che uno ha fatto, soprattutto quando lo scrive, non deve essere messa invece in secondo piano o a servizio di chi invece ha ben altri interessi. Quindi io sono l'ultimo possibile dei filoputiniani, ma ritengo che quelli che si dicono libertari e vanno a sostenere il nazionalismo ucraino siano in gravissimo errore. Siano in gravissimo errore perché devono decidere delle due. O si è anarchici o si è con l'esercito ucraino. E vi ringrazio moltissimo del fatto che abbiate fatto stasera un'iniziativa dove vi siate espressi chiaramente nel quella che per me è l'unica posizione possibile, quella di sostenere chi questa guerra la diserta, non l'uno nell'altro campo. Grazie della pazienza. C'è ancora un po' di tempo per interventi e domande. Tu a che ora devi andare via? Io ho il capo lì. Il capo cosa dice? No, a parte noi non potremo mangiare. A parte gli scherzi, se qualcuno ha da fare delle considerazioni o porre delle domande, venga che... Vieni, vieni. No, volevo approfittare di Peppe per chiedergli se è al corrente di cosa succede in Ucraina, che sono curioso di capire cosa succede in Ucraina, che ormai almeno a me non arriva più moltissima informazione, diciamo, autogenerata dai gruppi là, e, diciamo, per cui magari una mini sintesi della situazione forse può essere utile. Allora, la sintesi, più sintesi di così non ci potrebbe essere, nel senso che io mi sono reso conto, quando sono riuscito ad avere informazioni di prima mano, mi sono reso conto, già uno lo sa, però quando poi te lo dicono, quando è capitato che appunto di avere delle informazioni di prima mano, ma non sto a parlare perché diventa noioso, cioè non ci dicono un cazzo. Cioè la verità è che quando le informazioni di prima mano che io avevo venivano dalla Polonia, quando non sono andato io, però quando delle persone hanno avuto a che fare con persone del posto che conoscono molto bene la situazione, ha detto è vero, questa è nella prima fase, sono arrivato un sacco di ucraini, ma occhio e croce, la maggior parte non scappavano dai russi, scappavano dagli ucraini. Quindi ci vengono date tutta una serie di notizie per le quali non c'è nessuna affidabilità su quello che noi veniamo a sapere. Quello che è sicuro, mi sembrerebbe, da quello che io posso annusare in giro e dalle idee che mi sono fatto, è che, ma sto dicendo una banalità, penso che tutti quanti ci siamo qui su questa posizione, c'è un interesse diffuso a prolungare, a utilizzare l'Ucraina come uno, come arma contro la Russia, come superpotenza, ma soprattutto se noi vediamo per esempio gli eventi industriali del nostro paese, io tra l'altro non so manco uno filo industrializzazione, quindi a me della deindustrializzazione me ne fotte praticamente niente, ma se noi vediamo quello che proprio ci stanno proponendo giorno per giorno è che le aziende produttive praticamente non hanno un grande futuro, perché si produce tutto molto meglio, molto più velocemente e molto più economicamente in Cina, in India e altrove. Oggi, e do una notizia che molti hanno, però forse a qualcuno è sfuggita, i due percorsi universitari che ti garantiscono il lavoro sono medicina, ed è inutile che ne parliamo, di quello che hanno combinato e che stanno continuando a combinare, e ingegneria. Tutti i ragazzi laureati in ingegneria hanno la porta aperta per Leonardo e compagnia. Vanno a fare armi. Questa. Quindi immaginiamo, tu sai bene che io non sono un economicista, non sono marxista, anzi penso che il capitale sia un'invenzione, che sia una mitologia di tipo religioso, però gli interessi economici però esistono, il capitalismo non esiste, gli interessi economici esistono, e c'è questa grossa macchina che è una macchina fantastica. Ogni missile che viene buttato è il PIL che sale. Come sale il PIL ogni missile che viene buttato? Quindi noi abbiamo tutto un apparato che sta facendo il possibile, e sembrerebbe, poi è chiaro che in Ucraina mica pensano tutti uguali, perché in Italia pensano tutti quanti uguali, sembrerebbe che in realtà non è che ci sia questo grandissimo consenso in Ucraina a continuare la guerra. Ma infatti la domanda mia era anche se arrivano... No, ma infatti volevo un attimo anche concentrarmi su una riflessione su questi argomenti. Io mi sarei aspettato che, cioè, se qua in Italia, voglio dire, ci invade la Slovenia, butto lì, ma cazzo, i gruppi anarchici italiani prenderanno una posizione, faranno una riflessione, probabilmente, come dici tu, ci saranno variegate posizioni, e invece non ho, almeno io non sono riuscito ad avere molto flusso di informazione da parte... Marco, mi sono andato a rileggere la roba del 91, quando il povero Claudio Venza cercava di organizzare dei confronti fra gli anarchici dell'ex Jugoslavia. Il fatto è che in quelle situazioni non stiamo vivendo la stessa situazione. In quella situazione praticamente veniva fuori una scarsissima capacità, c'erano delle voci contrarie, però venuta fuori una scarsissima capacità degli anarchici di usare i loro strumenti. Quindi io non confido sinceramente negli anarchici, confido nei disertori, e i disertori parlano chiaro, cioè sono a decine di migliaia che sono scappate, però è chiaro che a quel punto, quando tu sei uscito da una situazione del genere senza nessun appoggio, perché non c'hanno nessun appoggio, loro devono tenere un profilo bassissimo, cioè diventa pericoloso parlare. Quindi noi dai disertori non possiamo pretendere che si esprimano in maniera chiara, quelli devono nascondersi il più possibile, perché prima o poi la guerra finisce e loro probabilmente in Ucraina non ci potranno più tornare. Quindi noi, per me l'idea al momento è che noi di vero e di onesto sulla situazione non credo che possiamo sapere... un granché. Sono dei giochi planetari che si stanno giocando sulla testa di questa gente, e dove non c'è neanche, appunto, per noi è facile, già qua non si dice la questione dei sertori, muoverla dall'ala vedo abbastanza impossibile, perché poi non è che quelli russi stanno messi meglio, sto parlando dei disertori ucraini, ma non è che se il disertore russo sta messo meglio, vedi, Putin è un presidente regolarmente eletto, quella è una società democratica, non è che è dittatoriale. Dittatoriale è quando Conte arriva e ti proclama che la Costituzione è sospesa e noi ci chiudiamo in casa, quella è dittatura. No, Putin è uno eletto, Conte chi l'aveva eletto? Nessuno. Quindi noi abbiamo la dittatura, lui e loro invece hanno la democrazia. No, avevamo, ma fortunatamente abbiamo la Meloni che pure è democratica. No, Putin è democratico, no, cioè, si capisce un cazzo, insomma, questa è la verità. Sono dei giochi troppo grandi. In alcuni casi sembra quasi uno stigma. Come dice tu, Capellone, tu l'hai detto. Cioè, non ne esci da queste cose. Cioè, sono degli interessi grossi di tipo geopolitico nei quali... noi possiamo solo constatare l'imbarazzante silenzio sulla questione internazionalista. Cioè, qua la maggior parte di noi sono grandini di età, e un tempo l'internazionalismo andava di moda, oggi non gliene fotte più niente a nessuno di dire che l'interesse, appunto, come diceva Macron, la rivoluzione la dobbiamo fare con i fratelli russi. Non è più di nessun interesse. Ognuno si deve tenere la sua casetta, fare il suo contesto, e chi sta da un'altra parte va avversato, va combattuto. Cioè, questo è quello che ci troviamo davanti. Gli immigranti li dobbiamo mandare in Albania. Cioè, stiamo parlando di della roba. E di chi è la responsabilità? Anche un po' nostra. Non siamo stati bravi. L'abbiamo sempre detto, lo diciamo da tanti anni, qualcuno, c'è addirittura qualcuno in questa sala che ha anche qualche anno più di me, e anche più di te, quindi, e non siamo stati abbastanza bravi. I nostri messaggi internazionalisti non hanno attecchito. Possiamo noi rimboccarci le mani, che alle nostre lo continueremo a fare, però vorremmo che fosse gente che ha tanti anni meno di noi a farlo. Però, così è. Scusa per la risposta deprimente, ma la sapevi già. Intanto che si alza qualcun altro, voglio ricordare che c'è un raggruppamento torinese, compagne e compagni di Torino, che abbiamo avuto qui qualche settimana fa, che sono ben informati e hanno diversi contatti, quelli che sono possibili avere, con compagni anarchici, non partecipazionisti, il gruppo di Kharkiv, che cercano di sostenere la diserzione in maniera anche molto molto pratica, e quindi delle informazioni possono essere reperite sul loro blog, e tutto quello che arrivano a sapere lo fanno circolare. Tra l'altro, tra loro ci sono compagne che parlano bene sia il russo che l'ucraino, quindi accedono a fonti di prima mano. Qualcun altro vuole dire o domandare? Se no faccio io... Vieni. No, vieni. Volevo dire una fesseria che mi sembrava un po' una conclusione ottimistica sul discorso del putiniano, antiputiniano, essere democratico, non essere democratico, che è tipo un'asticella, che è una bandierina che gira così, no? Cioè, fino a ieri era assolutamente democratico Netanyahu per un sacco di anche ebrei ortodossi, no? Che invece adesso sono in piazza e sono cresciuti come numero anche di disertori, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto tra l'altro una serata sulla diserzione, appunto, in Israele. Stesso discorso si potrebbe dire per la Siria, dove tanti nel movimento anche di sinistra hanno ritenuto democratico Assad fino all'altro ieri. Adesso Assad non è più democratico nemmeno per le democrazie occidentali, e quindi hanno pensato di mettere uno veramente democratico come Erdogan al posto suo. Non dirci quella pessimista. Sono di più quelli che disertano in Israele, e sono di più quelli che hanno capito che la rivoluzione siriana non era mettere Assad lì, ma era un'altra rivoluzione. Il problema, vabbè, lì è che i curdi purtroppo faranno sempre la fine che hanno fatto fino ad oggi, però chissà, si spera di no. Io ti chiederei di spendere ancora alcune parole per raccontare le forme della lotta armata dell'esercito macnovista, i modi dell'azione e l'interazione tra resistenza, trasformazione sociale, con tutti i problemi che possono esserci stati, perché l'hai ricordato anche tu en passant, organizzare una comune durante una guerra pone una serie di problemi molto grossi. Però proprio sul piano dell'organizzazione di combattimento i macnovisti hanno fatto, realizzato e non solo scritto qualche cosa di estremamente importante che vale la pena di essere ricordato. Sì, diciamo, molto difficile da sintetizzare, tenendo presente che loro appunto avevano tanti fronti aperti. Sicuramente la loro forza fu quella di un completo possesso del territorio, nel senso che loro non andavano a combattere lontano da casa propria, ma era una forma che noi possiamo, nella nostra esperienza storica, possiamo più associare ai partigiani sulle montagne, perché tu ti muovi in un terreno che è tuo. E loro poi avevano questa grandissima capacità inventiva bellica, e si basavano sul fatto che era un esercito, perché era un esercito, però che le sue strutture non erano determinate dall'alto. Quindi io credo che la grande forza di quell'esercito, da persona che vede le cose con gli occhi di poi, è che era, come dire, una volta si sarebbe detto, una vera lotta di popolo. Cioè non era un esercito professionale e non era neanche un esercito di specialisti. Lo stesso Macnò specifica nel libro che lui... non siamo ancora nel pieno della guerra, però due volte la settimana andava a fare i lavori agricoli, cioè fra tutte le cose che lui ci aveva da fare, 50.000 cose organizzative, perché loro non hanno mai pensato, chiaramente poi nei momenti di guerra più intensa hanno dovuto rinunciare al fatto che fosse poi un esercito, per quello che si poteva, un esercito autogestito e organizzato dal basso. Ovviamente noi lo sappiamo bene, quando stai in una dinamica di guerra prevale poi la dinamica di guerra. e i tempi là sono stati talmente veloci, talmente impetuoso è stato il procedere delle cose, per cui si è avuto appunto anche spazio per appunto delle calunnie di quelle di tipo antisemita, ma loro si trovavano, per esempio c'è la scena della, che non racconta lui, sarà raccontata poi da Arshinov, la scena quando un'altra armata di tipo nazionalista, diciamo plebeo, socialista, antisemita, con a capo Grigoriev, viene in contatto con loro, loro fanno un incontro e lo fanno fuori sul momento, cioè sono delle pratiche di lotta che è chiaro che loro si sono, oppure l'invenzione dei carri che si sono fatti per correre velocemente, i carri armati, non armati nel senso che erano armati, nel senso che avevano questo traino del cavallo molto veloce con cui riuscivano a combattere. È stata una forma di creatività, se vogliamo dire, per quanto la guerra non piaccia, penso, a nessuno di noi, e la guerra rivoluzionaria è una cosa scomodissima, non è che una cosa che si può augurare a qualcuno, però loro hanno dato dimostrazione di, nonostante le situazioni difficilissime, di appunto una grande creatività e una volontà di tenere fede ai propri principi nei quali loro credevano profondamente, perché erano i principi che loro vivevano e per i quali loro avevano fatto la rivoluzione. Loro non avevano fatto la rivoluzione per conquistare il potere, ma avevano fatto la rivoluzione, stavano facendo la rivoluzione perché pensavano, ma quello che hanno scritto loro, di vivere pacificamente condividendo la terra. È una cosa che loro sapevano fare, la facevano tutti i giorni, semplicemente non volevano avere i padroni. E questo li ha spinti a combattere in delle maniere che oggi, cioè che poi si possono definire eroiche, straordinarie, ma non è neanche particolarmente interessante questo. Di fatto loro si sono trovati degli eserciti armati dall'Occidente, come quello di Denikin, degli eserciti veri e propri, e sono riusciti sul terreno a respingerli proprio perché loro avevano tutto un popolo dalla loro parte. Quindi ciò che oggi ci sembra abbastanza improbabile da realizzare, al tempo loro, per quanto su delle estensioni di paese molto grandi, loro sono riusciti a farlo perché, secondo, a mio avviso, c'era un'integrazione totale, cioè la rivoluzione non era un momento staccato dalla vita, ma era un momento che faceva parte del loro desiderio di una vita differente, di uscire dalla situazione di servitù nella quale continuavano a trovarsi e conquistarsi appunto quel famoso mondo socialista libertario basato sulle comuni agricole. E questa è stata una operazione straordinaria che sicuramente ha visto Macnaud come ispiratore fortissimo e persona dalle qualità irripetibili probabilmente, ma anche tutta quello che traspare da quando lui dice gruppo anarco-comunista, che se lui faceva delle cose, figuriamoci Macnaud quanto era moderato in quella situazione che a loro non stava bene, appunto lo prendevano in giro perché gli dicevano che era, che non spingeva abbastanza avanti il processo rivoluzionario. Quindi è stato una, non possiamo dire tutto un popolo perché c'erano anche i nazionalisti sicuramente, ma è stata una vera realizzazione popolare. Immaginarla oggi, diciamo, siamo un attimo in difficoltà, però boh, chi lo sa, poi la storia non è mai a senso unico. Non... Ecco, vorrei ricordare solo che l'importanza fondamentale della lotta armata condotta dai macnovisti non è un'opinione tra le altre, ma è riconosciuta da uno dei maggiori storici della guerra civile in Russia come Lincoln, che proprio spiega bene come Denikin fu battuto grazie alla pressione dei macnovisti. Quindi questo a proposito della storia e della possibilità che, nonostante tutto il peso della controrivoluzione, degli elementi di fatto riescano infine a emergere. L'ultima cosa, Magno, che nonostante le gravi ferite riesce a portare quello che resta del suo esercito oltre confine, mi ricorda Michael Geismayr che, nonostante la sconfitta infine subita dagli eserciti imperiali, riesce a portare i suoi al di là del confine della Repubblica Veneta, salvo poi essere ucciso tanti anni dopo. Quindi questa capacità di portare e stare insieme ai propri uomini anche nell'estrema difficoltà è uno dei tanti tratti belli di questa figura, e non a caso rimanda ad altre figure rivoluzionarie altrettanto solide, sia sul piano dell'elaborazione teorica che sul piano della capacità di condurre la guerra quando si tratta di combattere. Diciamo nel suo caso io non ho studiato approfonditamente proprio l'uscita, ma da quello che ho capito, dalle cose che ho letto, credo che ci sia l'amore che c'era per Macno era talmente grande che credo che ci sia stato un bel po' di gente che si sia anche, come dire, sacrificata per permettergli di fare quel corridoio, per cui poi alla fine un piccolo numero di loro sono riusciti a uscire in Romania, se non ricordo male, perché appunto loro volevano assolutamente che lui continuasse ad essere un punto di riferimento, perché poi la storia è andata in un altro modo, però sì, diciamo, se la sono condotta in una maniera fantastica, anche se è andata male, però se la sono giocata al meglio. Va bene, grazie a tutti i presenti, i libri sono lì, ci sarà una puntata prossima, e spostiamo le sedie e mettiamo giù i tavoli.